Sì. Oni l'alchimista. Dexa Bastard Lady. Sensazione di scoria. Sì. Nel baratro più scuro della mente di una persona che in quest'ora si nasconde il vero vaso di Pandora. L'inferno che ritorna sulla terra sconsacrata, che ci insegna l'arte della guerra più spietata. L'inferno sulla terra, l'olocausto nucleare, il non rimodernizzare della guerra primordiale. Sento caldo e sofferenza che vanno per le strade. La nuova indecenza è l'incrociare di mille spade. Ancora il tuo spirito che viene si stuprato dai ricordi sempre vivi che non è ancora superato. Il tuo cuore intaccato per quello che hai passato, ma ora guarda l'altro lato. Dimmi cosa hai pensato, nascere vivere o morire, tutto calcolato. Poi prima di perire, qual è stato il risultato? Hai vissuto per soffrire, ora manca il fiato, ti cominci a pentire, ma sei già spacciato. Distruzione mentale con le tecniche più sadiche, partendo dall'apice fino alle cose più tragiche. Pensa alla creatura, si nutre di cose magiche. La vittoria crudele non considera quella fragile. Prima dell'orrore devastano la psiche, che al mondo sono queste le cose da capire. Cause su cui soffrire, dolore su cui morire, giorni e vita da godere senza più dover perire. Violenza di strada, minori in disco con la paga, abuso di potere e continuo della saga. Protezione minorile come il tetto di una casa. L'abuso fisico non si sa più da che parte vada. Maledetta perpetua frustrazione carnale, il malato che associa il neurone al genitale. Vittima piangente con la distruzione vitale, ma non servono due mesi per scontare la penale. La madre disperata si degna di un insulto, la giustizia che rilascia non appena c'è l'indulto. Sceno, prostituzione, magnaccio che la sfrutta, c'è il coraggio di incazzarsi per aver preso una multa. Perversione maniacale immersa nella società, molestie psichedeliche avvengono pure in chat. In teletrasmette stupri di vittime col ciuccio, droghe nel bicchiere legato a violenza di gruppo.